giornale radio del Friuli Venezia Giulia. I nodi vengono al pettine sulla vicenda dei centri islamici di Monfalcone. Oggi il TAR entra nel merito della sentenza, udienza, porte aperte, molto partecipata quella che si sta tenendo a Trieste. E a Trieste la BAT inaugura un nuovo hub di logistica integrata con l'interporto per lo stoccaggio e la gestione dei prodotti finiti e delle materie prime. Investimento da 6 milioni. Nuovo centro del riuso inaugurato a Udine da Nette, comune in via Rizzolo. Obiettivo: gestire in maniera più sostenibile i rifiuti con vantaggi economici e sociali. Le ripercussioni di fenomeni atmosferici sempre più intensi su fiumi, canali e laghi della regione al centro di un convegno internazionale dell'Università di Udine. Discusse anche le ipotesi di traversa di laminazione sul Tagliamento. Africa andata e ritorno, in un libro le esperienze di giovani medici che hanno trascorso parte della loro specialità in Africa. A presentarlo a Trieste il QAM, che da 70 anni investe nei paesi in via di sviluppo. Ancora un cordiale buongiorno da parte di Anna Vitaliani ed Elisabetta Zaccolo in studio per questa seconda edizione del nostro giornale radio. Si apre la battaglia legale tra i rappresentanti della comunità islamica e il comune di Monfalcone, cominciata dopo che l'amministrazione aveva inibito la frequentazione dei luoghi di culto perché i locali non erano utilizzati secondo la loro destinazione d'uso, una misura che le due associazioni islamiche della città ritengono lesiva della libertà di culto dopo il braccio di ferro dei mesi scorsi, culminato con il provvedimento del Tribunale amministrativo che alla fine ha autorizzato la preghiera nel piazzale dell'ex supermercato Ardi per la fase finale del Ramadan. Oggi al TAR si tiene l'udienza di merito che era stata evocata più volte nelle ordinanze del Consiglio di Stato sui ricorsi cautelari. Il giudice amministrativo dovrà decidere sulla legittimità dell'atto del comune. Presente in aula la sindaca di Monfalcone Anna Maria Cisint, rappresentata dalla legale Teresa Bigliani. A loro sostegno una decina di cittadini che hanno assistito al dibattimento. Per i ricorrenti l'avvocato Vincenzo Latorraca, alla presenza del leader della comunità Buconate. Al termine dell'udienza ci si attende una decisione entro un paio di settimane, con la possibilità concreta che una delle due parti possa appellarsi al Consiglio di Stato. Un 53enne residente a Villesse è stato arrestato dai carabinieri della locale stazione poiché ritenuto responsabile di maltrattamenti nei confronti della figliastra, mentre la moglie, una 32enne di origini straniere e madre naturale della 13enne, è stata deferita in stato di libertà per un'ipotesi di reato analoga, in quanto non si sarebbe opposta alle vessazioni subite dalla minore. L'indagine ha preso il via grazie ad una segnalazione da parte delle istituzioni scolastiche che hanno raccolto le confidenze della ragazzina. Dalle indagini i militari hanno potuto delineare un quadro di maltrattamenti, spesso la presenza anche dei due fratelli minori. Nei confronti dell'altra minorenne sono state documentate con frequenza pressoché quotidiana violenze sia fisiche che psicologiche. Oltre ai soprusi messi in atto dall'indagato, che è stato arrestato e condotto nella casa circondariale di Gorizia, gli accertamenti hanno portato alla luce la gravità e la delicatezza della situazione. La ragazzina veniva anche costretta a pulire quotidianamente la casa, ad occuparsi del bucato e a servire il resto della famiglia a tavola, con la paura di essere svegliata nel cuore della notte, di non poter frequentare la scuola o, peggio, di dover sottostare ad estenuanti allenamenti in giardino come una sorta di moderna Cenerentola. BAT Italia dunque si ingrandisce con un investimento di 6 milioni di euro, converte un precedente magazzino realizzando una piattaforma logistica integrata con l'Interporto di Trieste per lo stoccaggio e la gestione dei prodotti finiti e delle materie prime. Trieste sarà così il punto di partenza di tutti i prodotti commercializzati dalla multinazionale del mercato del tabacco. Un hub di logistica integrata di oltre 12.000 metri quadrati per fare di Trieste il centro di gravità di BAT, produttore di sigarette elettroniche. A ridosso dello stabilimento BAT a San Dorligo della Valle si tratta di una piattaforma logistica costruita in partnership con Interporto di Trieste con un investimento di 6 milioni di euro, convertendo un precedente magazzino che integra l'impianto produttivo inaugurato nel giugno dello scorso anno. Trieste diventa così il punto di partenza di tutti i prodotti commercializzati da BAT in Italia. La ristrutturazione e l'allestimento del nuovo centro di smistamento sono stati realizzati in collaborazione con aziende locali, aggiungendo quindi valore all'indotto del territorio. L'investimento totale di BAT a Trieste arriverà a 500 milioni di euro in 5 anni, con una stima di oltre 2.500 posti di lavoro tra diretti e indiretti. L'azienda mira ad avere 50 milioni di consumatori dei suoi prodotti non soggetti a combustione entro il 2030 e a generare 5 miliardi di sterline di entrate delle nuove categorie di prodotto entro il 2025. Lo scorso anno BAT ha registrato 24 milioni di consumatori di prodotti non soggetti a combustione, i cui ricavi hanno rappresentato il 16,5% dei ricavi del gruppo. Sebastiano Franco, TGR Friuli Venezia Giulia. Cimolai ha avviato i lavori per il miglioramento antisismico dell'ospedale Borgo Roma di Verona. La commessa del valore di 40 milioni di euro, affidata dall'azienda ospedaliera universitaria integrata di Verona, prevede il miglioramento sismico a protezione dei corpi di fabbrica dell'ospedale Scaligero, tra i più grandi d'Italia. Questa commessa rientra nel portafoglio ordini di oltre 800 milioni di euro che il gruppo Cimolai ha inserito nel bilancio 2023 e conferma la solidità industriale dell'azienda, che continua ad essere scelta anche sul mercato italiano come partner di fiducia per la costruzione di grandi opere. Occupiamoci ora dei centri di riuso, sempre più importanti per una gestione sostenibile dei rifiuti, obiettivo offrire significativi vantaggi ambientali e sociali. Questa mattina ne è stato inaugurato uno a Udine, gestito dalla NET e dal Comune. Non tutto ciò che non si utilizza è un rifiuto, ma molti oggetti possono essere riutilizzati. In via Rizzolo, a Udine, è stato inaugurato da parte della NET il centro del riuso, per dare agli oggetti che a qualcuno non servono più una nuova vita. Accattivante anche lo slogan che campeggia all'ingresso: per una buona abitudine. Mobili e arredi di piccole dimensioni, articoli per l'infanzia, giocattoli privi di dispositivi elettronici e altro, da sabato prossimo potranno essere conferiti dagli udinesi in questo centro. Il riuso è uno dei valori fondamentali per dare un'impronta corretta al nostro stile di vita, sia dal punto di vista sociale che da quello ambientale. Claudio Sicilotti, presidente della NET. L'idea di far sì che quello che può ancora essere utilizzato non vada ad alimentare i rifiuti, ma possa anche socialmente essere riutilizzato da persone che ne hanno bisogno, credo che sia un'idea giusta. Spero che sia un principio che si allarghi a macchia d'olio e diventi una pratica, come dice quassù, una buona abitudine. L'orario per il conferimento dei beni per i cittadini udinesi è dalle 8 alle 18 del sabato. Il passo successivo è la catalogazione degli stessi e l'esposizione nel centro. I beni conferiti potranno, a partire dal 6 luglio, essere prelevati da parte da qualsiasi utente e cittadino della regione. Udine, Giovanni Taormina, TGR Friuli Venezia Giulia. Fiumi, canali, lagune, laghi e ghiacciai della regione al centro della conferenza internazionale organizzata dall'Università di Udine, alla quale partecipa una settantina di studiosi di scienze sociali provenienti da tutto il mondo. Il cambiamento climatico ci suggerisce di cambiare la millenaria prospettiva attraverso cui guardiamo l'acqua, non più dalla terra. Abbiamo canalizzato, costruito opere, riducendo gli spazi di fiumi, laghi e lagune, ma si può avere un rapporto diverso con le acque dolci? Questa è una delle domande al centro di una 3 giorni dedicata alle acque interne organizzata dall'Università di Udine con oltre 70 studiosi da tutto il mondo, antropologi, geografi, sociologi, urbanisti, architetti, paesaggisti. Ridare spazio all'acqua, spiega il coordinatore, per tornare a essere una società idraulica capace di vivere in simbiosi con i fiumi. Francesco Visentin, professore di geografia all'Università di Udine. Un esempio concreto, interessante, è quello che è successo in Olanda con la Mosa e il Reno, è stato quello di ridare indietro della terra all'acqua, cercando in qualche modo di fare spazio, in questo senso, al contrario. Beh, questo permette ovviamente una maggior riduzione innanzitutto della velocità dell'acqua, questo in qualche modo ha anche degli effetti sulla sicurezza idraulica, ma soprattutto dà tempo all'acqua di percolare, quindi di andare sotto ed entrare negli acquiferi. Inevitabile parlare anche delle ipotesi di traversa di laminazione sul tagliamento, studiato a livello internazionale perché è uno dei pochi fiumi al mondo a scorrimento libero, senza sbarramenti, dighe o canali, in un'area abitata. Anna Scaini, ricercatrice del Dipartimento di Geografia e Fisica all'Università di Stoccolma. È un fiume che sappiamo poter convogliare una gran quantità di acqua molto bene. È un modello, diciamo, come tipologia anche per quei fiumi che sono stati magari cambiati, quindi che hanno avuto delle dighe o delle traverse e che adesso invece queste dighe o traverse vengono tolte perché abbiamo studiato e sappiamo che si può fare di meglio e che quindi hanno bisogno di un modello, e questo è quello che è il tagliamento in generale. Udine, Lillo Montaltomonella, TGR, Friuli Venezia Giulia. Diamo uno sguardo al tempo, il cielo sereno, poco nuvoloso sulla costa, da variabile a coperto in montagna. Queste le temperature registrate alle 11, a Trieste 19 gradi, a Gorizia 22,5, a Udine 20,5, a Pordenone 20, a Tolmezzo 16,5, a Forni di Sopra 14,5, a Tarvisio 14, a Piancavallo 11 gradi, a Sappada 10,5, sul Monte Zoncolan 8 gradi, sul Monte Lussari 6, a Lignano 22, a Grado 20 gradi. Le previsioni cielo in genere variabile con nuvolosità più consistente sulle zone montane, maggiori possibilità di schiarite verso la costa. Il tempo sarà instabile con rovesci e temporali sparsi e intermittenti più probabili verso la zona prealpina. Fermato a Trieste il responsabile di un incidente stradale, guidava senza patente con obbligo di rientro domiciliare. Qualche giorno fa il reparto motorizzato della polizia locale di Trieste ha avviato le ricerche di un veicolo coinvolto in un incidente con soli danni materiali avvenuto il 7 maggio. Il responsabile si era dato alla fuga senza fornire i propri dati. Grazie all'analisi delle immagini del sistema di videosorveglianza, gli agenti sono riusciti a identificare la targa del motociclo, scoprendo che il proprietario non aveva mai conseguito la patente di guida. Ulteriori indagini hanno rivelato che l'uomo era sottoposto a misure domiciliari con obbligo di rientro entro le 17. Trieste, con quasi 5,6 milioni di euro, è il comune capoluogo di provincia del Friuli Venezia Giulia che nel 2023 ha incassato i maggiori proventi da multe e sanzioni a carico di privati per violazioni delle norme del codice della strada. Il dato emerge dall'analisi realizzata da facile.it sui dati del SIOPE, Sistema Informativo delle Operazioni degli Enti Pubblici. Seguono nella graduatoria regionale Udine con 2 milioni e mezzo, Pordenone con 1,3 e Gorizia con 472 mila euro. Complessivamente nel 2023 i comuni capoluogo del Friuli Venezia Giulia hanno incassato quasi 10 milioni di euro provenienti da multe stradali. Analizzando il valore pro capite, calcolato come rapporto tra i proventi e il numero di abitanti residenti, al primo posto si trova appunto Trieste con una multa pro capite pari a 28 euro. Seguono a breve distanza Pordenone e Udine con 26 euro e Gorizia con 14. Guardando invece i comuni con meno di 4.000 residenti, in vetta alla classifica si posizionano tre comuni della provincia di Udine: Castions di Strada, 3.647 abitanti, 678.000 euro, Bertiolo, 2.353 abitanti, 600.000 euro, e Varmo, 2.653 abitanti, 392.000 euro. L'Istituto Superiore Malignani di Udine dispone di un nuovo laboratorio di elettronica donato dall'azienda friulana ASEM. Dispone di 18 banchi con due postazioni ciascuno, strumenti didattici all'avanguardia che consentiranno agli studenti di sperimentare tecnologie innovative. Il valore delle attrezzature è di 120.000 euro. L'amministratore delegato dell'azienda, Greg Nicoloso, che ha studiato negli Stati Uniti, ha sottolineato come nel nostro paese la scuola è migliore da un punto di vista della didattica, però più carente sul piano dell'applicazione pratica di ciò che si studia in classe. Il laboratorio offre un'opportunità formativa per gli studenti, della quale possono beneficiare anche le aziende alla ricerca di manodopera qualificata. Il dirigente del Malignani, Barbieri, ha ricordato che l'azienda è stata fondata da tre studenti dell'Istituto Udinese. Il laboratorio è il frutto di una collaborazione con la ASEM, che consente di fare della didattica innovativa su strumentazioni che effettivamente vengono utilizzate nel mondo del lavoro. È morto il cardiologo Eugenio Pez, fu medico pioniere del pacemaker a Trieste, collaboratore storico di Fulvio Camerini, introdusse con lui negli anni 70 la cardiologia di Trieste, le tecniche di elettrostimolazione e impianto di pacemaker. Gianfranco Sinagra, direttore del Dipartimento Cardiovascolare ASUGI, Università di Trieste, ricordando nel rapporto d'affetto le origini istriane della famiglia, sottolineando come fosse concreto, pragmatico, garbato, veloce pulisce ed elegante nei corridoi del vecchio ospedale maggiore, nonché disponibile al trasferimento di conoscenze. Un personaggio amato dai malati. Alcuni avevano incorporato il suo cognome nel dispositivo. Ho un pacemaker, dicevano. Ha curato decine di migliaia di pazienti, mediamente anziani e bisognosi di umanità. Andare a lavorare ogni giorno in bicicletta, anche per distanze relativamente brevi, circa 8 km di andata e ritorno da casa, più o meno mezz'ora al giorno, è associato a un miglioramento della fitness cardiovascolare, ma anche della funzione dei piccoli vasi sanguigni e dell'endotelio, il sottile strato di cellule che riveste la superficie interna dei vasi, le cui alterazioni sono un fattore di rischio per patologie cardiovascolari, intolleranza al glucosio, sviluppo di diabete. E quanto dimostra uno studio del laboratorio di fisiologia dell'esercizio del Dipartimento di Medicina dell'Università di Udine, grazie a un progetto cofinanziato dall'Unione Europea. Oltre ai dimostrati benefici sulla salute, aggiunge il direttore della ricerca Bruno Grassi, responsabile del laboratorio docente di fisiologia, l'uso della bici contemporaneamente ha effetti positivi sull'ambiente, riducendo la congestione veicolare e le emissioni di CO2 nell'atmosfera. Lo studio ha riguardato una sessantina di volontari sani di 40 anni di età media. Questa mattina nel nostro programma Buongiorno Regione abbiamo parlato della recente scoperta di un tratto finora sconosciuto del fiume Timavo all'interno di una grotta mai esplorata prima, situata nella zona di Trebiciano sul Carso Triestino. Una scoperta definita epocale nell'ambito della speleologia. Sentiamo. Ah, ma è acqua quella? Oddio. Arrivati sul fondo! Arrivati sul fondo! Deve essere quanto di più simile possa esserci all'emozione provata dagli astronauti dell'Apollo 11 nel metter piede, primi esseri umani nella storia, sulla Luna. Solo che nel caso degli speleologi della SAS, la Società Adriatica di Speleologia di Trieste, quell'emozione l'hanno vissuta qui sulla nostra Terra, anzi nelle sue viscere, a partire dalla grotta Luftloch sul fondo della dolina di Trebiciano nel Carso Triestino. Marco Restaino, presidente della SAS. L'iniziativa di scavare in questa grotta è partita addirittura nell'anno 2000. C'erano delle aree molto forti, una corrente d'aria molto forte che scaturiva dal terreno durante i periodi delle piene, quindi dopo le grandi piogge, e quindi questo voleva dire che 300 metri là sotto doveva esserci una grande caverna che durante i periodi piovosi veniva allagata dall'acqua. Tra difficoltà tecniche e imprevisti, 23 anni ci sono voluti per riuscire a raggiungere il fondo della grotta. A quel punto la scoperta. Raffaele Bruschi, speleologo della SAS. Scesi, diciamo, l'ultimo tratto della grotta, si entra in questa caverna molto alta, molto grande, e al cui interno appunto scorre questo fiume, il fiume Timavo, con un rumore veramente impetuoso, mentre la parte dove il fiume esce, quindi il sifone di uscita, essenzialmente c'è una galleria molto lunga che anche lì non siamo riusciti a percorrere. Quindi è un ambiente che ancora ci potrebbe regalare delle scoperte. Quando si scende in quell'ignoto, che emozione è? Essere i primi a mettere il piede in una dimensione inesplorata ci riporta alle grandi esplorazioni del passato. Ecco, ci sentiamo un pochino come Cristoforo Colombo in chiave moderna. Trieste, Lorenzo Gerlinzoni, TGR, Friuli Venezia Giulia. Il Comune di Trieste informa che per consentire le operazioni elettorali relative alle elezioni europee previste l'8 e il 9 giugno, alcune sedi di ricreatorio di centro estivo saranno interessate da alcune modifiche. Per quanto riguarda i ricreatori, venerdì 7 giugno solo per il servizio integrativo scolastico terminerà subito dopo il pranzo e le attività pomeridiane saranno sospese alla Gentilli di via di Servola, alla Collodi di via San Pasquale e alla Lucchini di via Biasoletto. Per quanto riguarda invece i centri estivi della scuola primaria, le strutture che apriranno martedì 11 giugno anziché lunedì 10 giugno sono il centro presso la scuola primaria Grego di Strada di Guardiella e quello estivo presso la scuola primaria Saba di Salita di Gretta. Sono passati 30 anni dalla strage di Mostar, dove persero la vita i colleghi della troupe Rai di Trieste, uccisi da una granata mentre giravano un servizio sui bambini senza nome. Era il 28 gennaio 1994. Poche settimane dopo, in un attentato a Mogadiscio, morivano Ilaria Alpi e Miran Hrovatin. Mostar e Mogadiscio, 30 anni dopo, 1994-2024, è il titolo dell'incontro che si terrà alle 17 al Troguski Dom di Gorizia. Dialogano Fabiana Martini, giornalista e portavoce regionale di Articolo 21, e Cristiano Degano, presidente dell'Ordine dei giornalisti del Friuli Venezia Giulia. Consegnati a Milano i premi giornalistici intitolati ad Almerigo Grills, il fotocinereporter triestino ucciso nel 1987 mentre documentava la sanguinosa guerra civile in Mozambico. L'iniziativa è stata promossa dai colleghi e amici Fausto Biloslavo e Gian Michalessin, con i quali a Trieste fondò l'agenzia Albatros. La giuria è presieduta dal giornalista friulano Toni Capuozzo ed è composta da 11 giornalisti, tra i quali la triestina Giovanna Botteri, corrispondente Rai da Parigi, e dal direttore del TG1 Gianmarco Chiocci. Una menzione alla memoria è andata ad un altro giornalista della RAI, Franco Di Mare, inviato nei Balcani, in Afghanistan e in Medio Oriente, morto pochi giorni fa. I premiati sono 5, la più giovane è l'ucraina Carolina Keirnovaen. I conflitti in Ucraina e Medio Oriente sono il comune denominatore con gli altri premiati: Salvatore Garzillo, Alfredo Bosco, Luca Steinman, Elia Milani. Contro l'intitolazione di un premio alla memoria di Almerigo Grills si erano mosse alcune associazioni, tra cui AMPI, CGL, ACLI e Articolo 21. Nell'appello presentato erano stati ricordati alcuni episodi di violenza di cui Grills fu responsabile negli anni giovanili, quando militava nel fronte della gioventù. Una raccolta di 30 lettere di giovani medici italiani e non, con provenienze e aspirazioni differenti, che raccontano in formato epistolare la propria esperienza, le emozioni, le storie che hanno incontrato e come questo periodo in Africa li abbia segnati. È il contenuto del libro Africa andata e ritorno, che verrà presentato questo pomeriggio alle 18 al Caffè San Marco di Trieste. Una giovane specializzanda, Erika Boscolo, racconterà la sua esperienza in Uganda. E poi ci sarà Giovanni Putoto, responsabile della programmazione della ricerca operativa del CUAM, che abbiamo raggiunto al telefono. Gli abbiamo chiesto perché il CUAM, da 70 anni, investe sui giovani e li spinge a fare un'esperienza in Africa. È importante perché si trovano di fronte a un mondo che pone a loro degli interrogativi. Il primo interrogativo sono le grandi disuguaglianze. In molti paesi africani non esiste un sistema di welfare come ce l'abbiamo tra di noi, che grazie alla fiscalità generale c'è una sorta di solidarietà tra sani, ammalati, abbienti e meno abbienti. In Africa, in molti casi, la salute è a pagamento. Come li vede cambiare questi ragazzi che rientrano poi da questa esperienza e frequentano i nostri ospedali? Li vediamo cambiati, secondo il nostro punto di vista, in meglio. In meglio perché sono più consapevoli del bene che hanno ricevuto dal loro paese. Secondo, sono molto più concentrati sulla persona e sull'importanza del lavoro tra in equipe. E terzo, c'è una grande dimensione che è anche quella della morte. Giovanni, lei accompagna questi ragazzi, ha visto crescere questo percorso di questi ragazzi ormai da 40 anni. Noi giornalisti parliamo spesso della difficoltà di trovare sanitari, di trovare giovani che si impegnino poi proprio nel settore dell'emergenza. Voi negli anni avete visto diminuire questa voglia di volontariato addirittura in Africa oppure no? Abbiamo richieste crescenti. Questo perché queste esperienze entrano nel vivo della persona, entrano nel vivo della dimensione professionale. E quindi l'altro aspetto fondamentale è che sempre di più ormai queste esperienze sono una condivisione con altri colleghi, con altri partner locali. Quindi questo mix tra Africa e Italia diventa un mix importante dal punto di vista della motivazione. E per questa seconda edizione del nostro giornale radio è tutto. In redazione ha collaborato Cristina Polselli, per la parte tecnica in regia Viola Romanese e Riccardo Stoic. Da parte di Anna Vitaliani ed Elisabetta Zaccolo, grazie per l'attenzione e l'augurio di un buon proseguimento di giornata. Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.